Bene, abbiamo l'onore di avere il professor Lo Giudice, preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Catania. Prego, professore, illustri un po' la sua facoltà. La Facoltà di Scienze e Matematiche, Fisiche e Naturali è una fra le più antiche facoltà della Università di Catania. Essa culturalmente racchiude tutte le branche delle scienze di tipo puro e applicato. Spaziamo dalla matematica alla fisica, alla chimica, l'informatica, le scienze geologiche, le scienze naturalistiche, le scienze ecologiche, le scienze biologiche e per ultimo le scienze e tecnologie applicate ai beni culturali. Pertanto svolgiamo un'attività formativa ad ampio spettro che si traduce nell'aver attivato per questo anno accademico 12 lauree di primo livello, cioè dire quelle lauree volute dal decreto ministeriale 509 che ha introdotto i nuovi ordinamenti didattici nelle università, di durata tutte triennali, tutte organizzate su 180 crediti formativi, più 14 lauree di secondo livello, cioè dire quelle lauree a cui si accede una volta conseguito il titolo di laurea in primo livello e che consentono approfondimenti e sperimentazioni specifiche nei diversi settori delle scienze, dove per settore delle scienze, ripeto, ci riferiamo sempre alle scienze teoriche e sperimentali di cui ho detto prima. Bene, se ci volesse illustrare un attimo gli sbocchi professionali che offre la Facoltà di Scienze. Parlare di sbocchi professionali per la facoltà di scienze è, direi, un po' improprio. Perché? Come ho detto, abbiamo diverse branche della scienza, diversi tipi di corsi di laurea. Ecco, parlare di sbocchi professionali dobbiamo allora riferirci, per parlare di sbocchi professionali, a ciascuna di queste branche. Quindi avremo sbocchi professionali per informatica, per chimica, per biologia, per scienze naturali, per geologia, per fisica, matematica, chimica e così via. Ecco, questa diversificazione, questa molteplicità di interessi scientifici e culturali produce automaticamente una diversificazione, una molteplicità di interessi applicativi e quindi di sbocchi professionali. Quali possono essere? Beh, se andiamo nel dettaglio, allora possiamo cominciare ad affrontarli. Vogliamo parlare di biologia? Ecco, gli sbocchi professionali della biologia sono tantissimi. Essi variano dal più semplice e più antico, che era quello dell'insegnamento, a quelli più moderni che vedono l'impiego dei biologi nei laboratori d'analisi, nelle sperimentazioni e nei laboratori di ricerca biologica, dalla biologia pura alla biologia molecolare, alla biologia applicata, alle biotecnologie, laddove questi laboratori esistono, alle promozioni, diciamo, delle industrie farmaceutiche, alla biologia applicata all'industria farmaceutica stessa. Ecco, diciamo che oggi il campo delle scienze biologiche è amplissimo e intimamente collegato con l'industria e offre ovviamente ampie capacità di impiego. Vogliamo parlare delle scienze chimiche? Le scienze chimiche hanno un campo di applicazione notevolissimo, perché nulla esiste a livello naturale o sia animato che inanimato che non possa essere ricondotto a fenomeni chimici. Questo ha prodotto un ampliamento enorme della ricerca e quindi delle applicazioni. Io dico dei numeri. Oggi l'industria chimica, oggi il settore della chimica in Italia a livello di richiesta è uno dei settori più attivi e prevede un deficit di laureati in chimica di circa 2-3 mila unità per anno. Questa è la richiesta del campo applicativo della chimica a livello nazionale. Iscriviamoci in chimica. Allora. Iscriviamoci in chimica, però studiamo anche molto in chimica. La chimica è uno dei corsi di laurea, ecco, più impegnativi che noi forniamo. Non che gli altri siano all'acqua di rose, però sono certamente fra i più impegnativi. Ecco, vogliamo parlare, non so, di geologia? Ecco, anche qui nell'ambito delle scienze geologiche basta pensare al territorio in cui noi operiamo, basta pensare al tipo di sistema in cui la geologia si imposta per capire che a livello di difesa delle frane, di sistemazione dei versanti, difesa dei terremoti, ricerca delle risorse idriche, ricerca di sorgenti energetiche alternative e così via discorrendo, ecco che la geologia gioca un ruolo principe. Anche qui, ovviamente, gli sbocchi sono diversificati e ampi. Lo stesso per matematica, per fisica, per informatica non voglio parlare perché il campo dell'informatica, ecco, ma questo per avere, come dire, un primo approccio molto sgrossato e generale di quelli che sono gli sbocchi. Gli sbocchi ci sono. I luoghi comuni, allora, secondo i quali andare in scienze non offre poi degli sbocchi, non è vero? No, io dico che andare in scienze dà una formazione scientifica, un approccio metodologico che peraltro è comune a tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze, che pone lo studente quantomeno nella possibilità di sapere affrontare il mondo che lo circonda. Dopo lo sbocco professionale, l'occupazione, l'occupabilità del laureato, ecco, questo non dipende dalla qualità della laurea, questo dipende dal contesto socio-economico in cui il laureato si inserisce. Bene, lei sicuramente da preside di facoltà avrà l'opportunità di guardare un po' dall'alto il tipo di vita che si svolge nell'Ateneo, no? Cioè i rapporti tra gli alunni stessi, tra i ragazzi, tra i rapporti tra ragazzi e docenti. C'è affiatamento? Sì. Ecco, io dico che nella facoltà di scienze, fatte salve i corsi più numerosi, ma anche lì il fenomeno si realizza, il fenomeno di cui parliamo si realizza abbastanza bene, tranne i corsi più numerosi, gli altri corsi di laurea sono, diciamo, stabilizzati intorno al centinaio di matricole per ciascun corso di laurea, un centinaio circa a chimica, un centinaio, un po' di più, 150. Un centinaio, 120 a geologia, un centinaio alle scienze naturali, eccetera. Cosa comporta questo? Questo comporta che di fatto i ragazzi si trovano inseriti in, come dire, delle classi, un po' come erano al liceo, un po' più numerose, ma certamente fruibili e vivibili. I ragazzi si conoscono tutti fra di loro, si frequentano, socializzano bene. Questo tipo di socializzazione, stante questi numeri, che poi risultano essere fisiologici col tipo di attività formativa che noi formiamo, consentono una socializzazione fra studenti e docenti. I nostri corsi si esplicano per buona parte con delle lezioni frontali, per altrettanta buona parte con delle attività laboratoriali, sperimentali, in cui il contatto diretto docente studente è indispensabile ed è molto positivo, perché quando abbiamo un rapporto, diciamo, per classi più piccole, questo rapporto si esplica bene. Ecco, non ci sono studenti che non hanno rapporti con i docenti, non ci sono studenti che non vengono conosciuti direttamente dai docenti, non ci sono studenti che non abbiano possibilità di dialogo costante con i docenti. Quindi io direi che questo rapporto fra studenti al loro interno e studenti docenti per classi diverse si esplica molto positivamente. Un'ultima domanda. Per accedere a questi corsi, a queste facoltà, ci sono dei test di ammissione? Sì. Diciamo che l'accesso ai diversi corsi di laurea della Facoltà di Scienze, a tutti e 12 i corsi di laurea della Facoltà di Scienze, è diversificato, nel senso che per 2 di questi corsi, e precisamente per il corso di laurea in Scienze Biologiche e per il corso di laurea in Informatica Applicata, che si tiene a Comiso, per questi 2 corsi di laurea abbiamo un numero programmato pari a 250 per il corso di laurea in Scienze Biologiche, pari a 80, se non ricordo male, per il corso di laurea in Informatica Applicata. Ecco, avendo un numero programmato, chiaramente qui abbiamo dei test d'ingresso di tipo selettivo. In tutti gli altri 10 corsi di laurea l'ingresso è libero, quindi non c'è nessun test d'accesso. Se dei test d'accesso vengono fatti, questi hanno soltanto carattere orientativo e non selettivo. Bene, ringraziamo il preside Lo Giudice della sua partecipazione. Grazie a voi.